Buongiorno, siamo con Giulia Raiano, titolare della lavanderia Fossolo 1, aperta a giugno di quest'anno. Grazie di essere qui ai nostri microfoni. Grazie a voi. Dunque Giulia, abbiamo letto che la vostra lavanderia utilizza lavatrici e asciugatrici ecologiche. In che cosa consiste questa caratteristica? Allora, quelle più ecologiche sono le asciugatrici perché recuperano il calore per generare l'acqua calda. Le lavatrici sono meno ecologiche, ma comunque quelle di una lavanderia self-service sono comunque più ecologiche di delle lavatrici, per dire, che si usano a casa, in quanto i detersivi vengono dosati da delle pompe e non dosati a mano dalle persone, quindi c'è sicuramente meno spreco. Questo comunque quindi contribuisce a inquinare meno? Sì, questo senza dubbio. So che avete inserito una camera sanitizzante all'ozono. L'ho detto bene, spero di sì, per sanificare gli oggetti. No, l'hai detto bene. In questo periodo di norme igieniche e sanitarie particolari, insomma, è un periodo che stiamo vivendo tutti quanti, che non sappiamo esattamente che cosa significa sanificare, che cosa significa... Tu ci puoi spiegare, visto che è il tuo mestiere, cosa consiste una camera sanitizzante? Allora, premetto con dire che nelle lavanderie self-service non è sempre facile trovare le camere sanificanti all'ozono, che comunque hai detto bene. E consiste a vedere una specie di frigorifero, una cella frigorifera, possiamo dire. La si apre, è piuttosto spaziosa e serve per sanitizzare quegli oggetti, diciamo, che non si possono lavare in lavatrice o a secco. E viene vaporizzato l'ozono che sanifica tutto quanto. Si possono lavare passeggini, valigie, zaini, tende da campeggio. E per esperienza avevo una tenda che non usavamo da chissà quanti anni, che faceva veramente un odore sgradevole. Con un solo lavaggio è venuta perfetta. E questo, insomma, è estremamente utile quando si parla di cose che non si possono lavare. Sì, decisamente. Poi ci tengo a precisare che... Caschi, per esempio. Anche i caschi, assolutamente sì. Tutti gli l'abbigliamento da moto, tutto quanto. Poi ci tengo a precisare che quando esce non profuma, perché è un tipo di lavaggio differente rispetto alla lavatrice. Però appunto tutti i cattivi odori non li senti neanche più. Bene, poi so che avete introdotto anche una novità per gli animali, con un'attenzione particolare per gli animali. Di che cosa si tratta? Esatto, abbiamo introdotto la colonna PET, che consiste in un asciugatore, una lavatrice esclusivamente per gli animali, perché comunque che ho un animale, io stessa ho un border collie, quindi perde, soprattutto quando c'è la muta, una marea di pelo, e lavando appunto le sue cose si perdono tanti peli. Quindi per diversificare rispetto alle lavatrici normali abbiamo creato questa colonna PET. Inoltre il nostro quartiere è veramente pieno di animali, quindi abbiamo fatto questa scelta. Insomma, sono tutte attrezzature un po' innovative, magari per me, insomma, che sono neofita. E per imparare a utilizzarle come si può fare? Allora, è tutto piuttosto intuitivo. In ogni caso, quando si entra nella lavanderia c'è uno schermo dove abbiamo montato un tutorial tramite un programma. Quindi anche solamente seguendo il tutorial, che sarò anche di parte, però mi sembra ben fatto, e la maggior parte dei clienti riesce ad essere autonoma. Se così non fosse, magari per i più anziani, meno abituati alla tecnologia e via di dicendo, c'è un numero da chiamare che è scritto sulla lavagnetta e noi chiamiamo e a distanza li guidiamo passo passo e in ogni procedura che loro desiderano. Quindi anche per i più scarsi come me. Ma no, dai. Ma ricordiamo dunque, mi hai detto che il tuo quartiere, che il quartiere dov'è la lavanderia, insomma, è ad alta densità di animali domestici. Stiamo parlando del quartiere Savena. Esatto, il quartiere Savena è praticamente dietro al liceo Fermi. La zona è vicino a Mazzini, è molto frequentata, infatti speriamo. E quindi vi possiamo trovare fisicamente nella Fossolo 1? Il centro commerciale Fossolo 1, la lavanderia precisamente è in via Fossolo 48/10E. E anche sui social, immagino. Anche sui social, lavanderia Fossolo 1 su Instagram e lavanderia Fossolo 1 sempre su Facebook. Bene Giulia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Per tutti coloro che avessero bisogno di camera sanitizzante, di colonna PET e di come me un tutorial su come utilizzare una lavanderia self-service, possiamo contare su di voi e quindi andarvi a trovare sulla vostra pagina Facebook e scoprire anche un modo come essere più ecologici nel lavare i propri panni. Grazie a voi, è stato un piacere.